ringraziare davvero in modo caloroso chi ha reso possibile questo convegno, in particolare con la Maria Rosa Davi, la Giulia Simone, la Laura Bellanda, del Distretto Veneto. Tante vedere Maria Rosa appena appunto fuori a telefono ancora in trincea per risolvere gli ultimi problemi della mattinata. La seconda cosa che volevo dire è che in relazione a questo convegno, e in particolar modo questa mattinata ad uno dei temi che verranno trattati stamattina, siamo riusciti in una sorta di piccolo miracolo editoriale, ovvero nel raccogliere e pubblicare in tempi rapidissimi quattro tra i saggi più significativi degli scritti di Angelo Ventura sul problema della persecuzione anti-ebraica, sulle leggi razziali e sugli intellettuali. Un po' come è successo per i saggi sul terrorismo, quando li ho mandati all'editore Carmine Donzelli mi è rimasto in qualche modo stregato per la qualità, perché sono saggi che magari si conoscono, gli specialisti conoscono, uno nella rivista storica, l'altro negli altri convegni, eccetera. Cosa ben diversa è poter avere insieme in un volume e ricostruire proprio la mappa della ricerca che lo studioso è riuscito a compiere attorno a un tema così importante. Quindi c'è anche questo elemento che desideravo appunto comunicarvi e spero il rettore nella sua introduzione ci ha detto che verrà pubblicato a breve anche quel lavoro pionieristico, tra l'altro curato anch'esso da Angelo Ventura, sulle leggi razziali all'università. Spero quindi che a gennaio ci sarà modo di presentarli tutti e due proprio qui a Padova. Io taccio, passo l'aggeggio infernale qui a Gabi e buon lavoro a tutti. Grazie. Non preoccupatevi più, passerò rapidamente l'aggeggio infernale alla Simona Polarizzi. Questa mattina è una mattinata abbastanza tranquilla, diciamo, abbiamo due relazioni, quindi avremo ampio spazio dare al dibattito e non farei nessun tipo di introduzione, semplicemente introdurrei la prima relatrice che è Simona Polarizzi, che immagino che voi conosciate, ma lo stesso dovere di presidenza presento, è una notissima storica dell'età contemporanea, ha lavorato all'Università di Torino, di Napoli e di Roma, si è dedicata soprattutto a studi di politici, ultimamente ha pubblicato un volume che ha suscitato non poco interesse insieme a Marco Zambasoni, La Terra di Penelope, storia della Seconda Repubblica, in cui si dedica molto alle tristi vicende della politica contemporanea, che però vedremo probabilmente anche in sede di discussione, hanno una connessione non leggera con il momento del trionfo della politica, credo possiamo individuarlo negli anni tra il 43 e il 45, in cui in Italia si è ricominciato a fare politica in un certo modo. Io passo la parola a Simona e attendo. Grazie. Allora, grazie mille. Dunque, io non vorrei entrare molto sul discorso metodologico intorno agli studi sull'opinione. E sottolineo opinione perché quando noi studiamo il fascismo, l'opinione non può essere definita pubblica, ma c'è un'opinione pubblicata, cioè l'opinione dei giornali, l'opinione del regime. È un'opinione pubblica, ha bisogno per esprimersi di avere un contesto di libertà, appunto nel regime fascista questo non era possibile. Stiamo anche parlando di anni in cui il rilevamento dell'opinione che guardando le termine aziendalistici, perché questo? Perché intanto perché l'opinione dell'intero impegno trova un suo culmine nel 1943, comunque negli anni della guerra. In molti casi questi anni della guerra sono stati usati proprio per capire quanto le radici del fascismo fossero le radici profonde del palestino, visto poi che queste radici si spezzano. Allora è per questo che mi è venuto in mente di guardare anche gli studi aziendalisti. Perché? Ma perché negli studi delle sue aziende, negli studi di comunicazione, nei momenti di emergenza per una grande società, una grande azienda, sono i momenti in cui si va a testare quanto effettivamente sia solida questa azienda. In termini, se vogliamo, appunto, aziendalisti, la guerra ha effetti devastanti su tutti quei parametri che appunto sono usati per testare la solidità di un'azienda. Per esempio, c'è una massima sfiducia nella governance, massima sfiducia nella governance, cioè il gerarchico, massima sfiducia in tutta la struttura fascista, i gerarchi sono incapaci di provvedere anche con efficienza al razionamento, persino una sfiducia dell'amministratore delegato, potremmo dire Mussolini, nel senso che a partire dal 42, ma su questo penso di ritornare, cade anche il mito del Duce, che pure era un pilastro molto importante per reggere la fiducia nei confronti del regime. Nel 42 il mito del Duce cade, e quindi totale sfiducia nella via. Richiamo sganciamento degli stakeholders, cioè chiesa, monarchia, mondo economico, forze armate e persino anche una parte dei gerarchi che, come noi sappiamo, sono mobilitati o si stanno mobilitando per cercare uno sganciamento da fascismo. In ogni caso, tipo, questo è quasi un livello di sfondo, però che ci dice parecchio. Per affrontare comunque l'opinione degli italiani del 43, oltre all'avvertimento che non esiste e non si può leggere un'opinione generale, bisogna naturalmente articolare un fascio di opinione, perché sennò non riusciamo ad andare a punto di conclusione, e queste fasce di opinione devono essere ulteriormente articolate nel momento in cui noi dobbiamo operare una cesura. Cioè, 43 nel suo insieme non è possibile leggere a livello, cioè non è possibile rilevare l'unione nel suo insieme nel 43, dobbiamo dividere da una fase, una prima parte che va fino al 25 luglio del 43 e una seconda parte che va dal 25 luglio in poi, perché il panorama cambia i protagonisti in gioco e quindi cambia anche l'opinione. E in questo modo, proprio pensando alla censura del dopo ottobre 43, noi poi abbiamo l'Unione del Sud e l'Unione del Nord, e questa è una distinzione estremamente importante. Dicevo prima che si è ritenuto, io naturalmente chiedo al Presidente Luciano di dirmi quando vado oltre un certo tempo. Allora, io mi faccio prendere la foga del discorso. Allora, dicevo prima che cade il mito del Duce, e quindi se parto da questo, penso che sia importante partire dalla caduta del mito del Duce per delineare l'opinione della prima parte, di questa prima parte dell'anno, cioè gennaio 43, luglio 43. Bisogna secondo me anticiparlo al novembre 42, per avere un periodo che sia in qualche modo omogeneo. Naturalmente il per me il novembre 42 è una buona data di inizio, un termine a poco interessante. Perché? Ma perché la situazione in Italia nel fronte interno, come nel fronte di guerra, precipita. Nel fronte interno precipita perché non sappiamo che è il momento dei bombardamenti massicci sulle città. È il momento del razionamento, in cui diminuiscono le razioni del pane. È il momento della progressiva scomparsa dei generi alimentari, che non è solo un problema di razionamento. E insieme arrivano le notizie da fronte, questo è lo sbarco degli alleati in Africa. Cioè già sta, inizia il discorso di Stalingrado, la sede di Stalingrado, e quindi precipita anche questo il fronte di guerra. A quel punto cade il rito degli inizi. Questo è un rilevamento che c'è da, non possiamo rilevare da tutti i rapporti, io sono basata nelle mie ricerche, ovviamente soprattutto su tutta la rete del regime, che non è solo la rete delle prefetture, delle questure, delle normali polizie, ma anche la rete delle polizie politiche, la rete dell'opera, la rete, tutta la rete, diciamo, spionistica, che diventa una rete di rilevamento e che naturalmente va tutta intracciata e verificata, perché come noi sappiamo i rilevamenti, io farei un applauso, per avere un minimo di credibilità per essere tra loro tracciati. Allora dicevo, cade il mito del duce, e questo mito era stato importante perché fino a quel momento il duce era stato considerato, era rimasto vivo questo mito, anche se la crisi di fiducia nei confronti del regime, della struttura, dell'intera struttura del regime, questa crisi di fiducia era visibile fin da subito, direi, dai primi anni della guerra, mentre si diceva che il duce in realtà era in qualche modo non colpevole di quanti gerarchi non gli dicevano come stavano le cose, c'era un inganno intorno al capo, no? E quando questo inganno cade, proprio perché si è creduto tanto in questo inganno, l'odio, l'avversione si manifesta anche più mortale. Uno dei primi problemi che ho, che penso sia necessario affrontare nel 1943, è quando questo stato dell'opinione pubblica, dell'opinione, scusate, che è evidente in tutti i rapporti, non ci sono equivoci su questo, venga percepito dalle classi dirigenti. Questo secondo me rappresenta un primo problema, anche perché a seconda di come viene percepito noi dobbiamo capire qual è la risposta che danno le classi dirigenti a questo calo di fiducia, a questo calo di opinione. È ovvio che se parliamo del regime non sappiamo che il regime ha una completa percezione di quanto profonda fosse questa crisi. Lo sappiamo perché sappiamo che il suo apparato proprio la notizia di quelli che sono gli umori degli italiani. E allora, e altrettanto possiamo dire che è perfettamente consapevole uno degli altri protagonisti, un altro dei poteri paralleli, cioè la Chiesa. La Chiesa che oltre ad avere l'ascolto che va, c'è anche il regime, c'è tutta la sua rete, la parrocchia, l'associazione cattolica. sfavore, contrario alla guerra, cominciamo poi a raffinare un po' il concetto di cos'è questa opposizione. Direi che per quello che riguarda il regime fino a un certo punto prevale, si sa di avere un paese contro, ma prevale nel regime la sensazione, comunque la certezza di quella sensazione, che nulla avrebbe turbato l'ordine pubblico, che è il pilastro del regime. Sì, si può avere un'opinione pubblica contraria alla guerra, ma in realtà fino a quando l'ordine pubblico non viene turbato, il regime pensa di riuscire a prescindere da un'opinione pubblica così sfavorevole. Naturalmente è una certezza che dura fino agli scioperi del marzo del 1943, anche se la percezione che sia una diciamo rivolta, una ribellione pur gravissima, perché sono scioperi in tempo di guerra, che ci sia però una ribellione di tipo spontaneo, e cioè che l'antifascismo non è un'alternativa in quel momento al regime, è qualcosa che in parte rassicura, cioè l'antifascismo non viene ancora considerato una minaccia, nonostante che ovviamente parleremo dell'antifascismo, questo lo andremo a sottolineare. Però fino a quel momento il regime si sente pressoché rassicurato, in quanto anche le manifestazioni del 43 vengono lette dal regime come manifestazioni contro la guerra ed esclusivamente contro la guerra, cioè non è in discussione il regime, è in discussione il regime perché ha fatto la guerra. Ma se la guerra finisse, e allora diciamo che il regime, i gerarchi e lo stesso Mussolini scelgono, per così dire, quasi una posizione di attesa, cioè come liberarsi da questa guerra, ben sapendo che non sarà assolutamente facile liberarsi da questa guerra, soprattutto che Hitler non consentirà al regime fascista di liberarsi da questa guerra, non c'è bisogno di andare del luglio del 1943 per rendersi conto di questo. Perché noi diciamo che si ha questa impressione? Ma si ha questa impressione che in qualche modo il regime pensi che a un certo punto potrà sopravvivere alla guerra, ed è anche la ragione per cui quando le repressioni che dopo gli scioperi del marzo del 1943 sono repressioni dure, ma non sono le repressioni draconiane che Hitler si aspettava di fronte a quella che era la ribellione del 1943, una ribellione in piena guerra, che avrebbe richiesto le conte nazionali, secondo Hitler. E è la scelta di Mussolini, a mio avviso, quella di non fare il bagno di sangue, per non scavare proprio un fossato tra sé e gli italiani, fossato che appunto sarebbe diventato impalpabile, il che ci fa pensare, ci fa ritenere che il regime è in una posizione ancora di attesa, perlomeno fino al luglio del 1943. Andiamo a vedere molto rapidamente anche gli altri poteri. Per la Chiesa, invece, la reazione della Chiesa è diversa. Perché nel momento in cui la Chiesa rileva questo picco, questo culmine di un'opinione pubblica sfavorevole al regime, il discorso di prepararsi alla successione al regime è un discorso che diventa invece urgente. Non sappiamo che la Chiesa ha sempre pensato a una successione al regime, ma con tempi che erano stati diventati il fascismo, però nel 43 si può rivelare all'interno del mondo cattolico una accelerazione e ci si comincia realmente a porre il problema della successione alla regina e emergono già dai primi mesi del 43 quelle che sono due linee diverse di successione e sono due linee diverse non perché rinuncio subito diciamo la linea Genta e la linea De Gasperi se vogliamo la sintesi naturalmente e non perché De Gasperi e Genta fossero in disaccordo sul fatto che fosse la guerra l'elemento che staccava, che erodeva le radici del regime. Tutte e due sono convinti che è la guerra l'impatto esplosivo del radicale. Ma è una diversa lettura della società fascista. Nel senso che Genta vede la società fascista come una società immobile, per cui è possibile dentro questa società fascista perseguire un disegno di continuità, nel senso che secondo la sua visione il fascismo aveva eliminato tutto quanto di diciamo, modernità politica, civile, valoriale, era stato seminato, solo seminato, negli anni precedenti al fascismo, negli anni del pre-fascismo, e che quindi, diciamo, questa società fascista immobile potesse essere traghettata con una certa continuità dal fascismo al nuovo ordine di conservazione, veniva eliminato, diciamo, gli elementi più irrompenti della dittatura, quelli che alla stessa Chiesa c'era dire il diciamo la sorta totalitaria del regime, no? Che aveva creato anche una sezione la sorta fascista del regime, la sorta bellica ovviamente del regime, e per avere però una continuità di stabilità di una società fascista. A mio giudizio De Gasperi ha invece una visione diversa della società, pur appunto essendo persuaso che fosse la guerra l'elemento del radicale. E però era altrettanto persuaso che malgrado il trascorrere del tempo non si fossero del tutto estinte dal paese quelle che erano le radici direi di una democrazia in divenire, alle quali proprio l'evolversi della situazione internazionale avrebbe dato vigore e quindi che era possibile recuperare un terreno fecondo e che questo terreno fecondo però non poteva essere abbandonato dai cattolici ma anzi doveva essere coltivato dai cattolici perché questo terreno si sarebbe fatto sempre più fecondo proprio per gli avvenimenti internazionali che stavano che stavano avvenendo. Se noi andiamo a vedere un altro potere, la monarchia, perché in questo modo noi riusciamo un po' a scomporre l'opinione, il ruolo della monarchia naturalmente nel 43 diventa centrale, cioè la monarchia esce da quel colo d'ombra in cui per tutto in cui era stata relegata. E quando noi parliamo della monarchia non possiamo pensare solo al re o al partito di corte, intorno alla monarchia noi abbiamo delle fasce di opinione molto importanti, le fasce di opinione liberale, monarchiche, cortesi, quelle che sono rimaste diciamo in opera, che si sono ritirate, non hanno fatto parte di un fascismo attivo, ma si sono ritirate. In parte possiamo pensare che anche poteri forti come i poteri economici fossero in parte legati al discorso della monarchia come legittimo potere del paese. Naturalmente perché sono militari, abbiamo parlato del potere militare, abbiamo un potere che è tutt'altro che indifferente all'interno di un paese. Giovanni Agostini avesse mai dubitato del peso di questi strati borghesi, folti, liberali, diciamo, legati, se vogliamo, al passato fascista, perché in parte le sue battaglie anti-borghesi, le grandi ondate anti-borghesi che sono, diciamo, che a fasi, no? Si verificano durante il ventennio, sono proprio indirizzate a cercare di spezzare quello che è un monopolio culturale in alcune fasi, proprio di valori di valori e quindi non è che l'ha mai sottovalutato, quindi non vanno sottovalutate, tanto più che direi che a partire proprio dal 1938, con la svolta totalitaria, viene rilevato all'interno del paese di queste fasce di opinione, viene già rilevato una serie di voci che chiedono un maggior protagonismo. Sono soprattutto voci contrarie all'alleanza con la Germania nazista, soprattutto voci di coloro che temono, per tanti versi, anche da un punto di vista economico, che temono l'esplosione della guerra e che temono che la svolta totalitaria porti poi a una soluzione di una gerarchia impropria. E quindi si sono già mobilitati, ci sono voci di come si possa intravedere una successione a Mussolini. Naturalmente queste voci ricominciano e sono anche molto più evidenti a partire dagli anni della guerra e diventano nel 1942, per esempio, già prefigurano lo scenario. D'altra parte, in tutto il corso della guerra, a partire dal 40, che si sia deteriorato il rapporto tra il regime fascista e l'Italia, questo è un fatto più che testimoniato dalle tensioni che ci sono tra i comandi militari, tant'è vero che poi facciamo tutta una storiografia, fascista, ha molto colpevolizzato, no? Ha colpevolizzato i militari, ha scaricato sulle spalle dei militari molte delle responsabilità della guerra fascista. Queste tracce di opinione comunque a che cosa portano? Portano però, così come hanno portato il fascismo, a una strategia molto incerta, in cui le pressioni del re aumentano persino a casa sua, aumentano, però questo continua a lasciare il re estremamente incerto. Di che cosa ha paura il re? Anche questo è molto noto, il re ha paura di una possono avere, ha paura dell'ondata squadrista, ha paura addirittura di dare a Mussolini quel pretesto che ha sempre ritenuto che Mussolini stesse aspettando per detronizzare. A questa paura, qui ci sarebbe molto da discutere, ma spero che le discussioni vengano, perché bisogna sempre poi chiedersi, ma è una paura vera o è una paura non vera, no? Questa paura sembra totalmente smentita, non è vero, perché poi noi sappiamo che il 25 luglio i fascisti rimangono più o meno paralizzati, non c'è un'ondata squadrista, non c'è una reazione forte dei fascisti, tant'è vero che questo meraviglia tutti, però. Allora, è questa una dimostrazione del fatto che la paura del re fosse una paura senza fondamenta? Questo è così piattamente causa effetto, perché l'effetto noi l'abbiamo dopo, e allora però possiamo anche tirare fuori un altro effetto, vale a dire invece la reazione di terrore, cioè in questo fascismo duro non è morto, risorge, c'è nella Repubblica di Salò, fa le sue vendette nella Repubblica di Salò, e a mio avviso sono vendette anche per lavarsi, per un lavacro dalla sua immobilità nel 1943, così dire. Comunque, questo è un problema, per esempio. L'altro è una paura, secondo me, molto più reale e quindi molto più paralizzata, nel senso che sono intervenuti di nuovo gli scioperi del 1943, e a questo punto il re teme quello che può succedere, cioè dopo 20 anni in cui si era, non aveva più avuto timore della sovversione sociale, di una rivoluzione sociale che avrebbe detronizzato, lo avrebbe tolto dal trono, avrebbe portato alla morte della monarchia, alla fine della monarchia, e a questo punto questo scenario gli ritorna davanti. Gli ritorna davanti e questo lo fa piombare in una incertezza maggiore, perché liberarsi del duce, come, cioè la contraddizione che vive è come si fa a liberarsi del duce però assicurando che la pace sociale, che il duce ha assicurato la sovranità, possa continuare. È tutto questo disegno continuista che, come sappiamo, si aggancia poi al disegno dei gerarchi, si aggancia anche al disegno delle pace cattoliche. Andiamo un momento agli antifascisti. 10 minuti. Andiamo al momento degli antifascisti e direi che sappiamo che gli antifascisti si rendono conto che la guerra dà loro un modo, no? Dal 38 se ne stanno rendendo conto, perché proprio a partire dal 38 si aprono delle fessure nelle mura che il regime ha costruito intorno all'Italia, che sono mura abbastanza invalicabili, non è che sono mura così facilmente invalicabili, se sono aperte delle fratture. Sono aperte delle fratture e anche gli antifascisti però si devono misurare sul problema di qual è la causa che ha generato queste fratture. E naturalmente la causa è la guerra. Ci sono delle osservazioni, delle riflessioni molto interessanti di Curiel a questo proposito, in cui Curiel dice: attenzione, noi non possiamo non notare che questo distacco è evidente della popolazione italiana dal fascismo è provocato dalla guerra, e quindi il problema è come trasformare un odio nei confronti della guerra fascista, che si riflette sulla capacità del fascismo di mantenere la sua presa nell'Italia, e come possiamo convertirlo in antifascismo. E antifascismo non significa solamente guerra, significa capire qual è la natura liberticida del regime. Ed è un problema per gli antifascisti, anche se naturalmente il terreno di raggruppamento dell'antifascismo si fa molto più fecondo. Devo dire che gli stessi antifascisti sono consapevoli però di non essere ancora un'alternativa politica al fascismo, ne sono consapevoli, è perché il problema è che effettivamente 20 anni di fascismo hanno portato una della grande minoranza della popolazione un atteggiamento che è un atteggiamento di estrema passività, cioè sono rarissime le fasce d'opinione in cui è maturato invece o si è riflettuto invece sull'eventualità che ci si dovesse mobilitare per raggiungere la pace. cioè si dovesse, che la pace poteva arrivare attraverso una certa mobilitazione dei cittadini. E possiamo, io lo potrei sintetizzare in questo modo, un pensiero diciamo dominante o della grande maggioranza dei cittadini. Se il duce non riusciva a fare il passo di chiudere con la guerra per le sue ragioni, allora sarebbe pensato al re. Se il re non riusciva a compiere questo passo perché era paralizzato dalle sue paure, beh, allora anche se la monarchia non era capace di salvare l'Italia dal precipizio della guerra, beh, allora dovrebbe pensare agli alleati. Questo era un continuare a scaricare da se stessi ogni responsabilità di mobilitazione a favore della pace. E d'altra parte si spiega anche in questo modo quello che in realtà la rete poliziesca del fascismo non si riusciva a spiegare, vale a dire che dall'ascolto dell'opinione veniva un inno ai liberatori, cioè agli alleati che comandavano la città. Invece diciamo di un sentimento di odio, l'ascolto della polizia fascista rilevava un grande entusiasmo nei confronti di questi alleati che combattavano. E quindi combattavano, certo, si piangeva sotto i combattimenti, però si invocavano gli alleati come liberatori. E questo, per esempio, nella rete di polizia non emerge quasi mai un discorso, ma allora ci devono pensare agli antifascisti. E questo ovviamente è limite. Una brevissima, solo notazioni che veramente finisco, sulla parte del luglio 43, fine 43, dicembre 43. Perché? Certo, questa luglio 43 è una cesura per cominciare a parlare dell'opinione dal 43 al 45. Non è possibile realmente un rilevamento sia in qualche modo persuasivo dell'opinione pubblica in questo periodo. Perché? Ma perché bisognerebbe spezzettare talmente le fasi, perché in ogni fase c'è un rilevamento diverso dell'opinione pubblica. Cioè, andiamo per esempio, bisognerebbe iniziare luglio 45, luglio 43, 8 settembre 43, quindi sono 45 giorni su cui testare l'opinione, no? E questo ovviamente si può fare, perché 45 giorni si va spegnendo la ondata favorevole di opinione alla monarchia, e in quei 45 giorni svaniscono, tramontano e falliscono tutte le strategie della continuità, la strategia della continuità monarchica, la strategia della continuità dei moderati, la strategia della continuità. Quindi ecco, più o meno, e ovviamente cresce l'antifascismo, cioè crescono i partiti antifascisti come forza politica. In quei 45 giorni l'antifascismo riprende ad essere un'alternativa politica, anche perché in quei giorni, intanto perché si risveglia ovviamente tutto l'antifascismo, vecchio antifascismo, il vecchio antifascismo si riesce a connettere con il nuovo fascismo, che era difficile da rilevare per le reti dei vecchi partiti antifascisti, ma che a questo punto si riesce a comporre. E soprattutto perché il 25 luglio non chiude un periodo, riapre un periodo in qualche modo. Cioè, il 25 luglio, per 45 giorni, una parte del paese riapre una partita. Cioè, quella partita era stata chiusa nel 22-25, ma è riaperta perché i protagonisti sono tutti sulla scena. Cioè, i protagonisti della marcia su Roma, i protagonisti del colpo di Stato del 22 sono lì. Anche Mussolini, perché noi sappiamo che poi rimane questo senso non viene chiusa. Ovviamente poi abbiamo la cesura nord-sud e quindi dobbiamo cominciare a rilevare quello che sta avvenendo nel sud, e anche questo è importante, ma è soprattutto importante per il dopo, perché paradossalmente la monarchia si rafforza, cioè ha perduto una serie di una buona fetta di consensi popolari e il suo progetto di continuità cade con il nostro segreto. Però la monarchia, la fuga del re nelle retrovie alleate, porta a sua maestà nell'ambito territoriale che è il suo ambito privilegiato. Se no poi non ci spieghiamo i tanti voti monarchici nel referendum del 46. E il periodo all'inizio del tra il 43, appunto, tra l'autunno e inverno del 43 e il 45 nel sud, è un periodo importante per la raccolta di consensi da parte della monarchia. Ultimo discorso vale per la Chiesa. Che è diciamo il potere insieme a quello dell'antifascismo, il consiglio ancora di quello dell'antifascismo, cioè la cui popolarità nell'Unione Repubblica cresce. E la popolarità della Chiesa è sempre cresciuta in tutti gli anni della guerra. Nel 43, nel luglio del 43, ancora prima del 25 luglio, è proprio visibilmente forte. Basta appunto guardare ai rapporti, ma in questo caso anche alle fotografie, in questo caso anche ai filmati del bombardamento su Roma. Nel momento è una cosa abbastanza impressionante, se qualche giovane non l'ha guardato, questi che sono dei film di luce straordinari. Bisogna andare a vedere la visita di a San Lorenzo, era una cosa che alle macerie di San Lorenzo, il quartiere di Roma era stato bombardato. Nessuna, nemmeno il re e sua maestà la regina, che vanno pure a visitare le macerie di San Lorenzo, vengono accolte quasi con mormorazione, pure il re, mi chiamano i mosconi che vanno intorno al cadavere. E l'autorità e diciamo la popolarità della Chiesa cresce, e cresce anche nei mesi successivi ovviamente al luglio del 43, e cresce anche perché, questo veramente mi fermo, perché c'è una crisi di legittimità. In un certo senso la Chiesa è l'unico ancora potere riconosciuto e legittimo. Io penso che sia necessario riflettere sull'opinione del 43-45, cioè dal 25 luglio in poi, perché quello che viene a mancare è la legittimità dei poteri. Non c'è più un potere italiano che sia legittimato, non lo è il re, non lo è Salò, non lo sono gli antifascisti che non hanno ancora una loro legittimazione, e quindi è nel vuoto di legittimità dei poteri che noi dobbiamo poi valutare dal 43 al 45. Grazie. Grazie. autunno del 1943, e ho scelto di fare questo mettendo a fuoco una serie di scene di vita e di morte quotidiana, piuttosto che fornire un quadro di vicende dell'insieme piuttosto note. Sono contento di poterlo fare anche alla presenza di Enzo Collotti e di altri colleghi che a mio avviso hanno negli anni scorsi animato e condotto ricerche tra le più importanti sul ruolo degli italiani nella Shoah. In questa relazione si osserva che nel 1943-45 gli italiani che dichiararono stranieri e nemici gli ebrei, li identificarono su base razziale come gruppo da isolare e perseguitare, stanarono casa per casa, li arrestarono, li tennero prigionieri, li depredarono e gli ebrei, li trasferirono e detennero i campi di concentramento in transito e infine li consegnarono ai tedeschi, furono responsabili di un genocidio. Un genocidio è il tentativo violento di cancellare un gruppo su base etniche e razziali. Che sebbene l'atto finale dello sterminio non avvenne sul suolo italiano o per mano italiana, anche gli italiani presero l'iniziativa al centro e alla periferia del rinato Stato fascista, partecipando così al progetto e al processo di annientamento degli ebrei con decisioni, accordi, atti che li resero attori e complici dell'Olocausto. Diversi furono evidentemente i gravi e le modalità di coinvolgimento, perché diversi furono i nuovi pratici e forme di partecipazione. Non si trattò solo di coloro che compirono materialmente gli arresti, tra cui polizia, carabinieri, guardie di finanza, militi e volontari fascisti, ma di coloro che compilarono le liste delle vittime, dagli impiegati comunali e statali nell'area razzista, ai funzionari di polizia che trasformarono i nomi degli elenchi in altrettanti mandati di arresto. Dal prefetto e dal questore che firmarono le ordini di cattura, giù lungo la scala gerarchica, alle datilografe che compilarono i documenti. Partecipe e complice fu anche chi sequestrò e confiscò beni ebraici, spendendo ore e talora intere giornate a descrivere nei più minuti dettagli i beni sequestrati, mettendoli sotto chiave, oppure trasportandoli e consegnandoli ad altri uffici o autorità, o caso non insolito, accaparrandosi per uso proprio oppure per lucro attraverso la vendita. Vi furono inoltre responsabilità dei relatori, chi segnalò, denunciò, consegnò, tradì i propri concittadini ebrei, e così via, nella catena delle persecuzioni e delle responsabilità delle loro contemporanee, in talora apparentemente innocue fasi e procedure. Chi guidò il camion, la corriera, la corretta che trasferì i prigionieri, chi sorvegliò le celle o i campi in transito, in quei campi o di provini le tovaglie. Infine coloro che sembra guardare rivolsero lo sguardo altrove, ignorarono completamente quanto stava avvenendo, coinvolti e a volte travolti da altro, dalle difficoltà quotidiane, dalla tragedia della guerra in corso. Indubbiamente, senza il progetto e la messa in opera della cosiddetta soluzione finale del problema ebraico da parte dell'ex alleato e ora occupante tedesco, la Shoah italiana non sarebbe esistita nelle forme e dimensioni storiche che conosciamo. Ma in questo intervento mi concentrerò sull'altro attore centrale della persecuzione, un po' sommato, con l'eccezione di pochi importanti studi, di quelli che ho richiamato, ancora trascurato, cioè i carnefici italiani. Vedrò in primo piano, cioè, le azioni e i comportamenti degli italiani che partecipano alla persecuzione, trascurando deliberatamente i salvatori, su cui a mio avviso troppo si concentra, in modo talora deformante, l'attenzione pubblica negli ultimi anni, sebbene come cittadino mi inchini di fronte al loro coraggio e alle loro azioni. Mi concentrerò in particolare su alcune premesse della persecuzione, su alcuni aspetti della preparazione del contesto ideologico e poi sull'avvio dell'autunno 43 delle deportazioni in Toscana e a Venezia, e infine sul problema della relazione. Nella valutazione della genesi del progetto italiano di radicalizzazione della politica anti-ebraica e infine della partecipazione al genocidio degli ebrei, definita sul piano ideologico e politico dal Congresso di Verona, che a metà novembre 1943 definì gli ebrei stranieri e nemici, devono essere tenute in conto alcune altre premesse che si collocano prima della caduta del fascismo e non solo a partire dalla svolta del 1938. generale di cultura politica, la regressione a Salò dello spirito totalitario del partito, come l'ha definito Emilio Gentile. Gentile ha notato che negli ultimi anni del regime, il delinearsi di una nuova iniziativa totalitaria ed estremista di tipo squadrista da parte del partito fascista, e ha sostenuto che, cito, Gentile, l'estremismo, la violenza del fascismo repubblicano in Salò non furono soltanto una conseguenza del desiderio di vendetta e della guerra civile, ma furono anche la maturazione di atteggiamenti evidenti già alla fine degli anni 30 e che si collegano in una corrente sotterranea e alla mentalità e ai limiti del partito armato. Fine della citazione. Caratteristica di questa logica totalitaria dello squadrismo fu la considerazione degli avversari come, cito, nemici da eliminare o da umiliare. Nello scontro della guerra civile, aggiungo, questa logica non era più quella governata dal regime, ma quella, se possibile, ancora più estrema, della guerra fratricida, senza confini, e dell'occupazione che radicalizzarono al massimo grado la contrapposizione e lo scontro tra noi e voi. Dal punto di vista delle decisioni politiche e anche delle organizzazioni di polizia, non può oltre essere trascurata la decisione immediatamente precedente allo scoppio della guerra del maggio 1940 di internare gli ebrei pericolosi oltre a quelli stranieri. Vi era stata quindi una prima escalation dei progetti persecutori, spesso sottovalutata la storiografia, già da anni prima della nascita della RSI, che aveva preso in fila con un messaggio datato 26 maggio 1940 del sottosegretario all'interno Guido Ruffarini, quindi a capo della polizia Bocchini. Il Duce desidera che si preparino dei campi di concentramento anche per gli ebrei in caso di guerra. Il giorno successivo, siamo quindi nel maggio 40, il capo della polizia aggiungeva un telegramma ai prefetti. In caso di emergenza, oltre gli ebrei stranieri di cui ho precedenti circolari, sarà necessario internare con gli ebrei italiani che per la loro reale pericolosità fosse necessario allontanare da abituali loro residenze. E precisare inoltre, prendersi a preparare i relativi eventi che dovranno essere pronti entro 10 prossimo giugno. In altra pubblicazione, probabilmente della seconda metà del giugno 40, Bocchini scrisse ancora ai prefetti: appena vi sarà posto nelle carceri, dovrà procedersi al rastrellamento degli ebrei stranieri appartenenti a stati che fanno politica razziale. Detti elementi indesiderabili, imbevuti di odio contro i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria, da difesa, stato o ordine pubblico, vanno tolti immediatamente dalla circolazione. Dovranno pertanto essere arrestati i ebrei tedeschi, ex cechi, polacchi, apolidi dall'età di 18 a 60 anni. Sei mesi più tardi, al conflitto ormai scoppiato, era nuovamente un farinbi che chiedere di effettuare l'invio dei campi degli cinque elementi che più danno luogo a sospetti, i loro sentimenti e la loro cultura. Il sottosegretario Farini quindi constatava infatti che gli ebrei, cito, ancora una volta avevano dimostrato la loro più attusa incomprensione di fronte agli eventi politici e storici in corso, rivelandosi costituzionalmente avversi ad ogni sentimento nazionale. Queste misure vengono effettivamente attuate dagli ebrei stranieri, ma nell'estate del 42 molti ebrei italiani vennero precettati a scopo di lavoro, una misura che riguardava specificamente gli ebrei e mirava a un loro sfruttamento su base razziale, costituendo un ulteriore passo di radicalizzazione della politica antiebraica del fascismo prima di Salò. La preparazione dei sistemi ideologici antinocidio che si cristallizzarono a Salò, come dicevo, a partire dal congresso di Verona nel novembre 43, potevano fondarsi, è evidente, sulla propaganda e la politica antiebraica elaborata dal fascismo, almeno a partire dall'estate del 1938, quando era stato gradualmente costruito un sistema che potremmo dire oggi di apartheid, che nell'intenzione del fascismo avrebbe dovuto caratterizzare la società italiana un tempo indefinito. La caduta di Mussolini, la fine del regime, il cambio di fronte sul piano delle alleanze militari, fecero infine del tradimento dei traditori figure centrali dell'immaginario fascista della RSI. Queste figure si intrecciavano inoltre con spiegazioni e accuse cospirazioniste caratteristiche della tradizione dell'antisemitismo politico europeo ottocentesco, come già erano state in forme leggermente diverse dall'antisemitismo cattolico. La guerra, e infine in particolare la guerra civile, favorirono il sorgere e il diffondersi di immagini del nemico interno, e la svolta genocidia portò a uguale con il nemico e vittima, lo straniero interno per eccellenza della cultura europea cristiana verso il secolo dell'euro. D'altra parte, il fascismo aveva scelto l'ebreo come nemico già da 5 anni, nel 1938, aveva educato i suoi cittadini attraverso giornali, le scrittrici, la propaganda e perfino programmi scolastici a considerare proprio l'ebraismo come una razza inferiore e spregevole. Il rinnovarsi dell'alleanza con il nazismo, specie nel momento in cui esso stava realizzando il suo progetto di distruzione di massa degli ebrei, ovviamente contribuì al fatto che il fascismo convergesse nuovamente nella sua radicalizzazione ideologica sull'antisemitismo come risorsa politica e identitaria, facendone uno dei fondamenti della Repubblica sociale. I sondaggi condotti dalla storiografia della stampa di Salò a livello locale confermano la rilevanza dell'antisemitismo come uno dei principali filoni ideologici e propagandistici della Repubblica sociale e come rilevante polo identitario nella guerra civile, oltre che come giustificazione e sostegno motivazionale della persecuzione ebraica. Questa funzione identitaria è confermata anche dal fatto che buona parte degli arresti di ebrei erano stati compiuti, la propaganda antisemita continuava sostenendo una sorta di allucinato antisemitismo senza ebrei. All'avvio delle deportazioni nel dicembre 1943, Rivoluzione, un giornale fascista repubblicano di Padova, aveva denunciato: sono stati i giudei ad avvelenare per tanti anni la vita del mondo dietro un folle disegno di dominazione universale. E quando sorgeva un dubbio che molti ebrei fossero stati in fondo durante il ventennio di buoni camerati, e persino alcuni capi del fascismo padovano erano quasi ebrei o simpatizzanti per gli ebrei, gli squadristi della Ettore Muti, di fronte al progetto di uccidere moralmente e materialmente tutti gli ebrei, lì sono citazioni fra Piazza Pulita, via tutti, morte a tutti, sequestrare i beni di tutti, ricordavano ai buoni e ai pietisti che gli ebrei avevano sostenuto la caduta del regime, finanziato l'antifascismo e, cito, tramato in tutte le sfere per intralciare il nostro lavoro di riedificazione della patria. La congiura ebraica e gli ebrei della razza nemica erano presenti nella stampa del fascismo estremo toscano fin da novembre 1943. Si trattava di temi rinfocolatisi già da alcuni anni allo scopo della guerra per abbassare sugli ebrei le responsabilità del conflitto. Nello scontro con gli alleati sbarcati su suolo italiano, il fascismo di Salò agitava ora anche il razzismo anti-africano a causa della presenza di soldati afroamericani e delle truppe statunitensi rappresentati come bestiali e sessualmente voraci. La polemica anti-ebraica si incontrava nella stampa del fascismo repubblicano, espressione di militanti, impiegati e quadri gerarchici della Repubblica Sociale, ma anche nuove testate che intrecciavano cattolicismo e fascismo, come Crociata Italica o Italia Cattolica, e in riviste di cultura come Italia Città, diretta a Firenze da Barra Chimiche, genere di Giovanni Fini. Ma l'antisemitismo attraversava e sosteneva l'immaginario politico degli altri dirigenti e dei ministri della Repubblica Fascista, non solo un Giovanni Prezioso, divenuto da teorico antisemita, che era stato per tutto il ventennio uomo di governo e legislatore, a capo dal marzo 1944 del nuovo ispettorato della razza, ma anche ad esempio Nicola Bombacci, redivivo nella cerchia di Mussolini, che in un opuscolo stampato di nuovo a proprio Palma nel agosto 1944 denunciava la matrice ebraica di quel bolscevismo che Bombacci aveva conosciuto da vicino in Russia nella sua fase più comunista. Ugualmente, l'antiterrorismo passava dalle pagine del ministro della cultura popolare Fernando Mezzasoma, che accusava il governo italiano ma del sud Italia e il suo vicepresidente, il comunista anarchico Togliatti, di essere al servizio della plutocrazia giudaico-massonica. Titoli come Ecco gli ebrei, la finanza ebraica alla conquista dei paesi arabi o la questione giudaica vista dai cattolici 250 anni fa punteggiavano il catalogo delle edizioni popolari o delle edizioni ER che si stampavano a Venezia tra il 1944 e il 1945. Il Veneto era uno dei centri di governo e culturali della Repubblica Sociale. A fronte di questa preparazione e contesto ideologico, dobbiamo comunque sottolineare che la partecipazione italiana al genocidio combinò le decisioni, gli ordini e le azioni di carnefici ideologicamente motivati l'azione di uomini comuni, nei corpi di polizia, nelle amministrazioni dello Stato, e in quella miriade di funzioni, da loro avvenire, che ho chiamato il principio, che furono essenziali, seppur diversamente, con grande responsabilità diversa, e la realizzazione della parte italiana del genocidio. L'inizio dell'azione culturale. L'iniziativa di alcuni prefetti, le richieste di Francia e del fascismo di questo punto, anticiparono con l'8 settembre l'ordine di arresto degli ebrei che sarebbe giunto in fine il 30 novembre 1943. Già il 13 settembre, il capo della polizia ordinava a Roma di arrestare i comunisti piacenzi, turbolenti in genere, e aggiungeva, compresi ebrei pericolosi, ordine pubblico. In ottobre, l'invocazione degli arresti di ebrei veniva dalla base del partito fascista rinato. A Padova, il gruppo su all'azione ai terremoti chiedeva l'internamento di tutti gli ebrei, mentre a Roma l'assemblea del partito fascista identificato voleva che tutti gli ebrei fossero immediatamente racchiusi in campi di concentramento. A metà novembre, a Ferrara, nella spedizione punitiva per l'uccisione del federale Eugenio Pisellini, che portò all'esecuzione di 11 civili, tra le categorie di vittime prescelte, accanto ad antifascisti, personalità del regime che mette in disgrazia e cittadini comuni, vi erano due ebrei. L'azione doveva rappresentare una vendetta contro i traditori del fascismo. Ma aspettava prefetti e questori passare all'azione con provvedimenti che precedettero quelli governativi, in una logica che si muove anche dalla periferia verso il centro, con iniziative locali. Tra ottobre e inizio novembre, le prefetture e questore, e talora elementi dei fasci costituiti, offrirono supporto organizzativo a tutte le tante di ebrei compiute dai tedeschi. Fu certamente così a Roma, in preparazione del 16 ottobre 1943, quando l'arresto di oltre 1000 ebrei della capitale poté essere condotto su liste anagrafiche prodotte e negli ultimi giorni aggiornate dalla questura. Fu così anche a Firenze, a principio di novembre, dove alcuni fascisti locali poterono fare da guida ai tedeschi attraverso la città per facilitare le operazioni di estremamento. A Piacenza, il 19 novembre, il questore confinò gli ebrei nei comuni dove attualmente risiedono. A Rieti, il prefetto chiese l'autorizzazione all'arresto per 9 ebrei già internati in quella provincia. Altrove, per esempio, a Ferrara, a Venezia, si riorganizzavano e si aggiornavano gli eventi di ebrei compilati a partire dal censimento razzista del 38. Ma l'iniziativa operativa più precoce fu quella del prefetto di Grosseto, al Cerro Polari, un interbese che veniva da una carriera militare e poi nelle file del partito fascista. Un uomo d'azione autoritario e brutale, motivato forse più la solerzia burocratica e repressiva che da specifici e intenti antiebraici. Il 25 novembre il prefetto Ercolani annunciava la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Saranno internati tutti gli ebrei italiani, anche se discriminati, nella provincia di Grosseto. Un campo di concentramento, annunciava il prefetto, sarebbe entrato in funzione il 28 novembre in località Rocca Tederini. Il provvedimento è stato preceduto a metà del mese da richiesta di censimento degli alloggi e proprietà e degli elenchi con la composizione dei nuclei familiari ebraici e da varie iniziative di sequestro dei beni agricoli e bancari da parte delle entità ebrei. A un cittadino che chiedeva chiarimenti sulle procedure burocratiche in corso, il prefetto rispondeva che, cito, qualsiasi società esista o solo ebreo deve essere preceduto dal sequestro e che l'iniziativa era stata voluta dal Ministero dell'Interno. In realtà, lo stesso Ministero chiedeva delucidazioni al prefetto Ercolani in merito alla situazione del campo. Secondo Ercolani, l'ordine era stato impartito dal ministro Buffarini in una riunione con il prefetto a Firenze, riunione che effettivamente esistente, in cui probabilmente vennero annunciati o profilati i prossimi provvedimenti. Fin dal 18 novembre, una relazione tedesca segnalava l'ordine di concentramento per gli ebrei impartito dal prefetto Ercolani e denunciava il prefetto di Grosseto e anche quello di Pisa come energici e dinamici, nonché il loro vivo desiderio di creare collaborazione. Precisava il prefetto Ercolani al Ministero. Poiché disposizioni dettagliate da parte di codesta della Direzione Generale si sono attese in vano, in adempimento dell'ordine ho ritenuto urgente e indifferibile istituire il campo in oggetto, affidandone la direzione al maresciallo di pubblica sicurezza di questa questura, segnalatomi dal questore come elemento idoneo e capacissimo. Le misure di sicurezza che il prefetto effetto di deutilizzare attorno al campo quel coinvolgimento di membri della milizia, di volontari della sicurezza nazionale, poi della Guardia Nazionale Repubblicana e dei carabinieri che erano i seguenti. Il comando della 98esima regione della milizia avrebbe inviato sul posto 20 militi con un ufficiale, uniti da almeno due mitragliatrici e due fucili mitragliatori in un congruo numero di bombe per ciascun milite. Con detta forza, che sarà scaglionata lungo il controllato, provvederà alla vigilanza sia di notte che di giorno. L'arma dei carabinieri, che spesso hanno sostenuto di non aver svolto mai alcuna funzione nella situazione ebraica, provvederà a tenere permanentemente all'esterno delle tribolate una pattuglia che vigilerà che nessuna persona, ad eccezione di quelle autorizzate, si avvicini a detto campo, coadiuvando la milizia per eventuali evasioni e detti internati. Completamente il campo avrebbe infine accolto una sessantina di prigionieri, tra cui donne, vecchie e bambini, per lo più consegnatisi spontaneamente, proprio in seguito, o autonomamente, proprio in seguito agli ordini del prefetto. Ma già nel febbraio 44, di fronte all'avvicinarsi della linea dei combattimenti, il prefetto dell'assedio del Colani aveva fretta di liquidare il campo dei suoi ebrei. Prego comunicarmi dove gli stessi debbano essere trasferiti, scriveva a parte della polizia. Il trasferimento verso Fossoli avvenne quindi con due pullman nella società dei trasporti di Dienese, condotti da autisti civili. Secondo una testimonianza, il primo degli autisti tentò un contatto con i partigiani per la liberazione dei prigionieri che trasportava, ma il salvataggio non avvenne e il pullman proseguì fino alla sua destinazione, dando il concentramento dell'ansito e tre sindacati della provincia di Modena che, riadattato in diretta dall'italiano a partire dal dicembre 1943, era da poco passato in mani tedesche e costituiva l'anticamera dell'invio ai campi di sterminio, soprattutto al campo di Auschwitz in Polonia. È datato, come noto, 30 novembre 43 l'ordinanza di polizia numero 5 del ministro degli interni di Farini Guidi che ordinava l'arresto dei tre italiani e il sequestro dei loro beni. Ancora in attesa di istruzioni precise, il questore di Venezia, Filippo Cordova, giungeva a polizia e carabinieri di diffidare tutti gli ebrei, cito, facendo loro obbligo di non allontanarsi dalla residenza e presentarsi ogni giorno all'ufficio di pubblica sicurezza e o al comando carabinieri. Il telegramma del questore precisava tra l'altro, gli ebrei più influenti e più pericolosi dovranno essere piantonati nelle loro abitazioni. Anche nell'immaginario burocratico si insinuavano e si trasmettevano rappresentazioni tipiche della propaganda ebraica. Queste ingigantivano la supposta influenza e pericolosità di quegli ebrei che ancora si trovavano a Venezia, in realtà relegati nelle loro case dall'inizio dell'occupazione tedesca al 15 di settembre. Giungevano infine le istruzioni del Ministero. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengono o comunque residenti nel territorio nazionale, devono essere inviati in apposti campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, devono essere sottoposti all'immediato sequestro di attesa di essere confiscato nell'interesse della pubblica sociale italiana, la quale gli destinerà l'ufficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni del potere. In conclusione, si disponeva: siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere diventati in campi appositi speciali, appositamente rafforzati. In quest'ordine, comunque, le autorità italiane assumevano in prova ufficialmente l'iniziativa della persecuzione delle vite degli ebrei. In molti luoghi, come abbiamo detto, questa azione aveva già presa via da qualche settimana, in quel tragico autunno 1943, per l'iniziativa innanzitutto dei tedeschi e spesso con un ruolo attivo degli italiani. Pochi giorni più tardi scattava anche a Venezia l'operazione di polizia preparata in dettaglio per le giornate successive all'ordine del Ministero, sulla base di elenchi anagrafici. Alle ore 14 del 5 dicembre 43, il questore ordinava l'immediato fermo elementi appartenenti a razza ebraica e quest'ordine veniva inviato ai commissari di pubblica sicurezza, al commissariato di pubblica sicurezza, al comando dei carabinieri, alla 49esima regione della milizia volontaria di sicurezza nazionale. Venivano quindi coinvolti sia le forze di polizia e militari dell'alleato stato fascista che il braccio armato del partito, corpo ideologicamente unitario. Questi furono i principali soggetti della violenza ebraica a Salò. Si era deciso di procedere nella notte, con il favore dell'ospedale, per un'azione che poteva essere disapprovata dalla popolazione, e soprattutto per togliere di sorpresa il sonno, comunque presso la propria abitazione, le vittime disegnate. Tendenti ebrei, ordinava il grande questore, saranno condotti alle locali carceri di Santa Maria Maggiore, se di sesso maschile, alla casa penale della Giudecca, se di sesso femminile, al centro di Giorelli, se trattasi di minori. Il trasferimento avviene a Venezia in parte a piedi, in parte di acqua. La sera successiva, il prefetto comunicava al Ministero degli Interni il successo della nazione. Notte, su sei correnti in Venezia e provincia, procedutosi in fermo, numerosi, numero 163 ebrei individui, 114 donne e 49 uomini. Esisteva già un coordinamento con l'autorità tedesca, conforme al parere locale del comando germanico, con ancora procedutesi a carico ebrei, sposati, mariani, auto viceversa, che sono sottoposti a vigilanza, attendosi in merito e disposizione. L'operazione era durata tutta la notte, all'alba da parte di un sistema di arrestati erano stati prigionati. Alla settimana successiva, nelle carceri e in altri luoghi, provvisori, e la settimana successiva saranno poi stati tutti trasferiti nella casa di ricovero dei feriti che è il Ghetto Nuovo, che avrebbe funto da campo di transito. Nei giorni seguenti, gli agenti di polizia, recatosi presso ciascun indirizzo dove aveva arrestato un ebreo o una famiglia, volevano sotto sequestro l'abitazione dopo una minutissima inventariazione dei beni custoditi e sigillavano la casa. Il 28 dicembre, il questore di Venezia annunciava infine al commissariato, il comando dei carabinieri, la deportazione degli ebrei. La deportazione fu quindi rapidamente organizzata. Il 21 dicembre il commissario di pubblica sicurezza delle ferrovie di Venezia comunicava la voluta partenza di 93 ebrei scortati dai militari dell'arma. Prendevano posto, precisava il telegramma, su due vetture di terza classe messe a disposizione dalle ferrovie, mentre i loro effetti, d'uso per circa 15 quintali, viaggiavano su merci, caro merci, agganciato alla stessa composizione. Com'era avvenuto il trasferimento dalla casa di ricovero che si trovava nel quartiere ebraico? Cerco di condurvi in un'analisi microscopica, spero che seguiate, mi scuso di questi dettagli, ma credo sia interessante entrare nelle dinamiche in dettaglio. Ce lo racconta nel dopoguerra la relazione di un tuttofare, un ebreo che lavorava presso la casa di ricovero. Si era proceduto ancora una volta di notte, il carabiniere si era rivolto al tuttofare che lavorava presso lo spizio, il campo di transito perché procurasse una grossa imbarcazione. Doveva noleggiare questi uomini a bordo con la guerra una grossa barca e trasportare nelle ore notturne attraverso canali nascosti i ricoverati alla stazione ferroviaria. L'uomo aveva rivertuto forse per strappare condizioni di trasporto più confortevoli, per opporre una qualche complicazione o resistenza che esistevano i vaporetti. Vaporetti non ce n'erano, aveva risposto seccato il carabiniere, non intendendo utilizzare mezzi né intendeva rivolgersi ad altri per organizzare il trasporto con tutta la trafila di altri contatti e organizzazioni che ciò avrebbe comportato, ma alla fine si era comunque ricorsi a un vaporetto sequestrato o ottenuto ad hoc e partito da una vicina stazione. Finiti, un gruppo di ebrei aveva dovuto muoversi in processione con la scorta attraverso le cali che collegavano il ghetto alla vicina fermata del vaporetto di San Marcola. Sotto gli occhi di chi? Qualcuno vide cosa pensò? Gli ebrei erano caricati a bordo e il vaporetto scivolò per alcune centinaia di metri lungo il canale fino alla stazione di treno. Nessuno vedeva, si chiedeva qualcosa, capiva cosa stesse succedendo, almeno in parte la relazione ce lo dice. Rimasi a vedere l'imbarco al portiere di San Marcola, sorvegliato da agenti e carabinieri, e aspettai con infelice gente a fronte degli scarichi, il grande ponte di fronte alla stazione ferroviaria. Ma essendoci troppe persone curiose, per le quali alcune mormorava, deprecando che in sordina per paura di spie alcuni mormoravano deprecando il fatto di sordina per paura di spie. Il vaporetto proseguì fino al cortile della stazione di costruzione che serviva per lo scarico dei materiali. Quindi i partenti preso il posto, fiduciosi di tornare in due carrozze di terza classe, mentre io, scaricata la barca, collocai i bagagli sigillati in due altri carri merci. E malgrado il divieto del solito carabiniere, le porte chiuse consegnai al dottor Muggia il trattamento del viaggio, promisi che sarei andato a prenderli al loro ritorno e li salutai. Il 31 dicembre 43 erano dunque partiti per posto di carri 93 ebrei. A questi si sarebbe aggiunto il 18 gennaio 1943 un gruppo di piccolissimi minori che si trovavano in precedenza in condizioni tali da non consentire il trasporto. Ci chiediamo, erano disposti, erano ammalati, stati salvati. Per ordine del questore, questi bambini sarebbero stati ricongiunti ai genitori, il che significava che erano lo stesso destino di morte. Era noto in che termini, con quali dettagli, era possibile non pensarci, non temere di qualsiasi, non temere qualsiasi fosse la loro destinazione. Il questore comunicava al direttore del campo di fosso con questo messaggio, credendo i bambini che sarebbero stati accompagnati in treno da agenti di questo ufficio. Levi Mario di Beniamino di anni 4, Levi Lino di Beniamino di anni 6, Tedesco Sergio di Eugenio di anni 4, Nacamu di Mare di Eugenio di anni 3. Circa un mese più tardi, il 22 febbraio 1944, il convoglio dei veneziani diretto ad Auschwitz, che includeva anche il gruppo dei nonni che erano molto ricongiunto ai genitori, partì da Fosso. Di esso faceva parte uno dei pochi che alla fine, questo convoglio faceva parte uno dei pochi che alla fine della guerra potevano tornare, Primo Levi, assieme a lui, che ne avrebbe scritto se questo uomo, altri 649 prigionieri stipati in 12 vagoni merci. Avrebbero concluso un viaggio di 4 giorni fino al campo, dove la grande maggioranza trovò la morte. Concludo con uno sguardo sull'attività delatoria, attività delatoria che coinvolse gli ebrei stessi, le vittime che entrano nella zona grigia, come l'ha chiamata Primo Levi, che è quella tecnicamente della definizione di Levi, in cui vittime e carnefici non si distinguono, ma in cui le vittime assumono a propria volta il ruolo di carnefici, collaborando. L'attività delatoria dell'ebreo triestino Mauro Grini ci mostra come questo tipo di violenza entrasse nella quotidianità dei rapporti, infrangesse le norme e le attese della convivenza e si determinasse in modo imprevedibile. Con la primavera dell'estate del 1944, Grini scese a Venezia da Trieste e si stabilì in un hotel lontano dalla stazione ferroviaria. Il suo ufficio si trovava presso il locale comando dell'SS. Era venuto a cercare ebrei triestini rifugiati da Luna, dove contavano di non essere riconosciuti. In diversi non erano fuggiti lì perché la città veniva bombardata e affollata, ma le risorse non mancavano, trattandosi di uno dei centri maggiori della Repubblica Sociale. Grini aveva con sé alcuni ipotetici indirizzi dove cercare, poteva contare su alcune informazioni di polizia, batteva il tappeto, alberghi, pensioni o campi, controllando i registri degli ospiti. Infine si spostava in luoghi più strategici di una città dove, nonostante l'idea delle carte e delle carte, gli assi viari su cui la gente si spostava, come dei punti nevralgici e anche i trasporti pubblici erano facilmente controllati, inclusi quelli di fuoriuscita dalla città. A liberazione avvenuta, ad esempio, Teresa Pescatori denunciò la postura di Venezia che il marito e il cognato, Ignazio e Adolfo Lust, ebrei di origine polacca, erano stati fatti arrestare a Grini su un treno nel tratto Venezia-Mestre, con la collaborazione della polizia ferroviaria italiana, che erano stati quindi consegnati ai tedeschi dopo che avessero una parte di ufficiali italiani. Grini aveva fatto così a Trieste, fece lo stesso per un breve periodo a Brescia e infine a Milano, dove ormai nel marzo del 1945 venne segnalato un bollettino del Corpo Volontario della Libertà con questa descrizione. Brun di Trieste, ebreo, si fa chiamare Grini, ovvero il dottor Manzoni, è al servizio dell'SS tedesca e si è specializzato nella cattura di corregionali da lui precedentemente conosciuti. Ha fatto catturare circa 300 ebrei a Trieste, un centinaio a Venezia e a Milano, e continua la media di 2 al giorno. Il padre, noto sarto, è a Trieste in capo di concentramento. Grini percepisce 7.000 lire per ogni ebreo che fa arrestare. A Milano va sempre in compagnia di 2 tedeschi e gira per il centro, specie in galleria. Alto di statura, molto ben vestito, 35-36 anni, calvizie incipienti alle tette, capelli castani, naso marcatamente sinistro, membro del Corpo Volontario di Sicurezza della Libertà, Corpo Volontario della Libertà che partecipa al Ministero di fisionomici diffusi sinistri. Una lettera della primavera 46, la primavera ferita di Trieste, ecco che Walter Suslan, rifugiato a Venezia del 43, ricostruivano un vero e proprio metodo seguito da Grini. Cito: girava per le vie di Venezia, incontrando qualche conoscente, lo salutava e lo seguiva per via. Se non che, evidentemente, il Grini stesso si faceva seguire da qualche altra spia che aveva l'incarico di pedinare la persona salutata, la quale, non vedendosi seguita da lui stesso, riteneva di non essere preso in mano. Questo sistema, evidentemente, mi dava ad evitare che contenuto di un arresto di altri perseguitati si nascondessero. Fatto sì è che il Grimm, dopo aver fatto spargere appositamente la voce, si è assentato a Venezia per qualche giorno, per poi ritornare e stringere la rete dei pesanti. Infine, i Suslan riferivano che una conoscente canadese si era trovata casualmente in un festino a cui partecipava anche Grimm, il quale, in stato di ubriachezza, aveva detto di ricevere che non aveva catturato 17.000 e di molto un mensile fisso di 10.000, pure allora gli sarebbe fatto arrestare. Fino ad allora circa 1.400 persone. I numeri erano probabilmente esagerati, ma tenuto anche conto di quelli denunciati dal Giuratino Milanese del Corpo Volontario della Libertà, il fatto che vari arresti riguardavano molti familiari, le vittime di Grimm potevano aggirarsi attorno a diverse centinaia. Nella primavera del 47 la Corte d'Assise di Milano condannò per collaborazionismo Grimm alla pena di morte mediante fucilazione della schiena, ma Grimm era probabilmente già morto a San Saba, come tutti i suoi familiari. Il sistema della relazione, che implicava dunque la collaborazione delle vittime e il supporto di forze e strutture di polizia, si concludeva con l'eliminazione del delatore stesso, una volta che questi risultasse non più utile o si ribellasse alle norme della collaborazione. La delazione, su cui concluderò, sto concludendo, è la delazione che riguardò centinaia di italiani non ebrei, che innanzitutto prevedevano la possibilità di arricchirsi, di vendicarsi o di togliere di mezzo un ostacolo nella propria vita professionale e familiare. Un grandissimo numero di arresti e sequestri o confischi di beni fu legato a una denuncia personale o anonima. Non era soltanto la situazione di guerra che rende l'uomo e la donna nemici del loro prossimo, contava molto la guerra civile che per definizione contrappone violentemente uno scontro fratricida. Infine la situazione genocidaria che definisce e identifica un limbo interno e autorizza la persecuzione e legittima la vittimizzazione. Anche coloro che non militano, che non sono necessariamente schierati sul piano ideologico, si ritrovano a vivere e aderiscono a un nuovo sistema di norme che, se non comune, autorizza l'uso della violenza contro il nemico interno, incluso il proprio vicino di casa, il proprio conoscente o amico. In questo contesto emergono inoltre la motivazione personale, l'odio privato e il miraggio di un guadagno. Nel 1943-45 l'iniziativa di delazione era incentivata e persino strutturata da un sistema poliziesco che si basava sulla rete di informatori, un sistema peraltro già strutturato dentro il fascismo, per realizzare i propri persecutori e per estendere il coinvolgimento e le corresponsabilità degli atti violenti in zone sempre più ampie del tessuto sociale. La ricerca di sostegno e complicità del disegno di genocidio moltiplicava, seppure per casi diversi, il numero dei carnefici. Un funzionario del famigerato Ufficio Affari Ebraici di Firenze, uno dei più sanguinari centri ebraici dei carnefici italiani, guidato dal fascista feroce e antisemita Guido Martelloni, in un interrogatorio del dopoguerra ricordava lo stigmicidio quotidiano delle denunce. Cito: con la posta giungevano segnalazioni anonime che davano indicazioni sulle famiglie ebree. Il segretario dell'ufficio, che passava a Martelloni, che le visitava, le passava a mettere accertamenti. Io mi recavo all'indirizzo indicato, che spesso mi trovavo anche quelli degli SS che c'erano già stati, oppure c'erano già stati. Evidentemente, segnalazioni anonime venivano inviate anche a quel comando. La realtà applicata della guerra civile, del fascismo in atto e del regime di occupazione moltiplicavano i destinatari delle direzioni e delle iniziative persecutorie. A volte era l'impiegato che denunciava il responsabile del proprio ufficio, la cameriera o il cittadino che denunciava il padrone. Potevano contare in questa situazione anche un elemento di classe sociale. Il socio che tradiva il socio. Potevano emergere antichi contrasti che era spesso la prospettiva di padronirsi delle ricchezze e delle altrui. Esistevano infine, come abbiamo detto, delle vere e proprie taglie sulla testa di ciascuno che aveva denunciato. Con queste vicende spesso entriamo nella infinità di micro rapporti consolidati, assoluta fiducia brutalmente traditi. Poteva trattarsi dello studente che denunciava il professore o perfino del tradimento di un compagno di classe. Amedeo Stuberrazzi, che ha studiato a Roma, ha ritenuto di individuare in due casi di questo tipo, studente e compagno di classe, dei violatori ideologicamente motivati in due episodi o almeno situazioni in cui l'ideologia ce l'ha da vettore all'atleta, forse nell'interno della relazione. Un sedicenne romano, noto per il suo impegno presso la Federazione Fascista, denunciò un proprio maestro di musica ebreo, il professor Roberto Malavrega, mettendogli tra l'altro nella borsa un manifestino comunista, per ben due volte, dopo aver fatto lezione a casa dal giovane Giulio nel novembre 43 e nel gennaio 44, Malavrega venne arrestato dai fascisti. La seconda è fatale e si concluse con la deportazione. Un altro caso, Umberto Stizzichino, che nel febbraio 44 aveva cercato di conforto del compagno di classe in vista della fuga in Svizzera, all'appuntamento con l'amico che in seguito avrebbe perfino combattuto per fine dei nazisti guadagnandosi il soprannome di Boglia, vi trovò invece gli SS che trovò arrestato e portato. Da allora, e qui cito Marta Bagliani, la fede fascista, l'antisemitismo strisciante e ragioni utilitaristiche si intrecciavano, come nel caso del figlio fascista e squadrista di una finta camera di Fiorentina, che denunciò l'anziana inquilina sorda con cui i rapporti si erano guastati. L'età, le condizioni di salute non contavano, poteva intervenire anche una maggiore distanza e assenza di pietà, una sorta di fatalismo. Senza escludere coltivazioni materiali o carrieristiche, su cui il fascismo era fiorito, Luciano Allegra ha notato come nell'era seguito, cito, la caccia all'ebreo fece parte di un annus, una Weltanschauung profondamente proiettata, per la quale la riduzione allo stato di paria del nemico, vero o presunto che fosse, conferiva al detentore del potere una sorta di diritto di vita o di morte senza pericolo. Concludo davvero l'esperienza della RSI, della guerra civile e del genocidio degli ebrei ci confrontano non semplicemente con l'assenza di ogni morale, ma con un universo morale rovesciato, un mondo fatto di nemici in cui i concittadini, i vicini e persino i compagni di scuola divengono dei nemici stranieri, le vittime designate. Questo rovesciamento di valori è stato descritto da Primo Levi in un'intervista, nella quale Levi ricordò il proprio dialogo con un giovane carabiniere che assisteva i tedeschi per carico del suo convoglio diretto ad Auschwitz. Levi avrebbe detto a questo carabiniere: si ricordi di quello che sta vedendo, si ricordi che lei è complice e si comporta di conseguenza. Allora il giovane carabiniere gli avrebbe chiesto: ma che posso fare? E Levi gli avrebbe risposto: faccia al lato, è molto più onesto. La resistenza passiva in qualche modo che ha caratterizzato gli anni tra il 43 e il 45, hanno avuto della costruzione poi del secondo dopoguerra e del ruolo forse, cioè, il primo interrogativo, naturalmente me lo pongo solo io, si è posto in passato numerose volte da ampia letteratura, del se è vero sul serio che la nostra Repubblica, quella che ci troviamo a vivere noi, sia una Repubblica nata dalla resistenza e dall'antifascismo, o se la resistenza e l'antifascismo non siano state in qualche modo irrilevanti in epoca successiva, che siano state altre le forze che hanno poi caratterizzato la costruzione della nostra Repubblica, la scrittura della Costituzione e quant'altro. La difficoltà a reperire fonti su quella che Simona Lorenzi ha chiamato opinione pubblica, opinione e poi naturalmente le ha tutte le volte, perché è una difficoltà vera degli storici, diciamo, avvera però il lavoro della splendida relazione che ho molto apprezzato di Simona Lorenzi, l'idea di quanto sia contemporanea la storia contemporanea, cioè di quanto si debba partire dagli interrogativi di oggi ragionando sul passato. 30 anni fa, 40 anni fa nessuno avrebbe pensato di studiare l'opinione pubblica, mentre oggi noi giorno per giorno ci fondiamo sull'opinione, ci sembra quasi impossibile non avere il polso dell'opinione pubblica, per cui siamo forzati a chiamare l'opinione pubblica, naturalmente spezzettatissima e, come giustamente emerge dalla relazione di Simon Lewis, un'opinione pubblica che va tutta interpretata. Nel caso della persecuzione verso gli ebrei c'è tutta l'epopea utilizzata molto dal punto di vista didattico negli ultimi anni dei giusti, che si sono comportati in un certo modo, che hanno lavorato nell'ombra tentando di nascondere, di salvare gli ebrei anche da posizioni ideologiche di tipo fascista, però comunque cercando di intervenire per interrompere una catena che era evidentemente una catena di morte, e ci sono state anche, c'è stata anche la scelta che chiamerei forse della non resistenza, anche non resistenza civile, anzi del collaborazionismo, di quelli che Simon non ha chiamato ingiusti, ma che alla fine forse potrebbero anche essere chiamati ingiusti, nel senso che se vogliamo dare un valore etico al comportamento di una determinata categoria di persone, potremmo anche azzardarci a dare un giudizio etico rovesciato alla categoria opposta. Ora, io mi sentirei di avanzare due o tre punti interrogativi, diciamo, partendo dalla relazione di Simona Colarizzi. Mi hanno colpito due elementi. Il primo è la scelta che vorrei in qualche modo fosse utilizzata, se ci sono fonti, a proposito ipotetica di Mussolini, di non intervenire durante il sciopero del 43 con un bagno di sangue. A me sembra un'opinione personale e il giudizio sprezzante spesso che Mussolini dava nei confronti degli italiani in generale avrebbe giustificato senza nel comportamento di Mussolini un intervento. Sono moltissime frasi del tipo: gli italiani non sono difficili da governare, ma sono inutili, è impossibile governare, per cui non mi avrebbe stupito. E forse un intervento di questo tipo invece avrebbe rafforzato la presenza del partito, del regime, del fascismo movimento in una situazione di difficoltà, e poi con quello che abbiamo sentito subito dopo, avrebbe anche rassicurato in qualche modo il morale dal fatto che il fascismo aveva ancora in mano la situazione. Il secondo interrogativo riguarda la mancata mobilitazione proprio delle forze paramarchiche, diciamo, di cui parlava sempre Simone, cioè quegli ambienti che Simone ha definito liberali borghesi, insomma, che avevano tentato di, in qualche modo avevano scelto di sottrarsi e di mantenersi nell'ombra durante il ventennio, e che sarebbero fra i protagonisti della scelta poi della svolta del 43, del luglio del 43, sostanzialmente spingendo anche il re a prendere una decisione dell'arresto di Mussolini e quant'altro, come sappiamo. Ora, a me sembra che quegli ambienti fossero degli ambienti particolarmente influenti. Già prima, ambienti importanti, ambienti che già nel 38, che è un altro momento di svolta che è stato segnalato, avrebbero potuto alzare la voce. Questo mi ricollega alla relazione di Simone Davis, cioè di intraprendere la strada del razzismo di Stato, della persecuzione anti-ebraica, era una decisione che andava decisamente contro gli interessi nazionali, e c'era tutta una classe, secondo me, alto sociale legata alla monarchia, che di questo si rendeva conto, ma che rimane muta in quell'occasione e non fa nulla. Forse avrebbe in qualche modo analizzato questo silenzio. Ci voleva proprio una guerra, ci voleva una guerra disastrosa per capire che l'abbraccio con i tedeschi, con Mussolini, con Hitler, che erano comunque già percepiti dagli italiani come un nemico, non fosse proprio una direzione sensata per l'Italia nel suo complesso. Sono due questioni che emergono, sulle quali forse vale la pena di riflettere. Per quello che riguarda Simon, e poi lascio la parola a chi vuole intervenire, trovo molto importante la questione dell'antisemitismo senza ebrei, cioè di questa grande propaganda ricchissima che si sviluppa nella pubblicistica durante la Repubblica Sociale tra il 44 e il 45, in cui gli ebrei sono già un nemico sconfitto e in via di deportazione, eppure viene sviluppata una retorica piena di, naturalmente, luoghi comuni provenienti da un'ampia letteratura del passato, e che diventano, secondo Simone, probabilmente ragione, un elemento centrale della propaganda del regime della Repubblica Sociale. Ora sappiamo che la propaganda è stata sempre uno strumento fondamentale del regime fascista ed evidentemente gioca un certo ruolo anche in quei mesi, in quei 20 mesi. Mi chiedo e gli chiedo quanto l'archivio, cioè quanto il linguaggio antisemita che emerge da questo questa letteratura, che poi è abbastanza paradossale se pensiamo a Bombacci e ridere nella tragicità naturalmente, quanto abbia contribuito questo tipo di produzione alla costruzione di qualche cosa che Simon ha evidenziato in una sua pubblicazione recente, a quell'archivio antisemita che non ha smesso di funzionare dopo il 25 aprile del 1945, perché ha avuto una lunghissima storia, ancora adesso c'è una lunga storia negli anni del secondo dopoguerra. Detto questo, lanciate queste quattro idee, lascio la parola a chi vuole intervenire, due o tre domande, magari si dice il suo nome, non so, perché questo strumento è abbastanza difficile da passare. Sono Alberto. Ci sentiamo. E volevo penso di aver capito, quando lei fa riferimento alle forze dell'esercito, quindi lei già guardia di finanza, carabinieri, milizia che agiscono in concorso nella deportazione ebraica, fa riferimento comunque a forze che agiscono all'interno della Repubblica Sociale. Sì. Quindi quando l'arma dei carabinieri giustamente nega ogni coinvolgimento, non è in virtù del fatto che le forze che giurano all'interno della Repubblica Sociale non sono le forze del Regio Esercito che invece servono il Regno del Sud, e questa cosa si può anche, come dire, vincere dalla denominazione che viene data ai nuovi reparti della Repubblica Sociale, perché quella che invece nel Regno del Sud continua a essere Regia Guardia di Finanza, Regia Arma di Carabinieri, Regio Esercito, nella Repubblica Sociale diviene Guardia di Finanza Regionale Repubblicana, Arma di Carabinieri Regionale Repubblicana. Quindi questi reparti che, in virtù diciamo di non tradire il patto con l'asse, però tradiscono il giuramento che hanno fatto del re e quindi giustamente non vengono considerati più appartenenti al, al re di Vesto e all'arma dei bambini correntemente. Posso fare relativamente alla divisione delle 40, sono una cosa di offente, cioè un dato politico, su cui diciamo no, si presenta come un dato economico, ma che comunque incontro l'esprimento un dato politico. Su questo fatto i documenti di esposizione dello stesso uscito sono praticamente inesistenti. Io ho trovato qualche appunto, qualche accenno successivo dell'agosto 43 a Milano, nel caso di prefettura sia di Stato italiano che di prefettura, dove si richiamano alcuni operai che erano arrestati nel periodo valdoriano come appartenenti, diciamo, fondatori di, diciamo, dei shopper, governatori, partecipatori di shopper. Ecco, praticamente, cosa ne pensa di questa? Io ho la mia opinione del perché non ci siano queste case, parte da questo stato di studio. Ma anche che sia questa, diciamo, questo shopper in quelle dimensioni per la città e in quella durata, perché dura quasi un mese, è talmente una dimostrazione dell'inefficienza, dell'incapacità, ma anche dell'imitanza. La gente non riesce a capire, a cogliere questo. Lo nega, diciamo, rifiutando ed anche, diciamo, forse facendo scomparire dei documenti. Questo come opinione. Cosa deve essere? Io avevo due o tre domande per lei sull'anno. Si dice che mi interessa il ragionamento sulla impostazione della relazione, ossia voglio parlare dei nemici, voglio parlare delle responsabilità degli italiani nel genocidio. Credo di poter essere d'accordo che questo punto di vista corretto. Mi interessava una valutazione sulla gradazione, se possibile, delle responsabilità di chi promulgato leggi razziali o ha firmato in questione su diverse. Mi sembrava che lei dicesse la dattilografa che ha scritto nell'anagrafe comunale, quel messo comunale che ha consegnato la notifica per i beni ebraici il 10 dicembre del 1943. La seconda domanda riguarda i delatori, che sicuramente hanno svolto un ruolo nella identificazione dei nasconditi nell'arco degli ebrei. C'è un finale di delatori. È possibile avere un numero? Terza domanda. Nell'esordio della sua relazione, io voglio parlare dei carnefici, non voglio parlare dei saldatori, perché forse c'è stata troppa enfasi su questi. Forse è così. Però mi domando, se è vero come è vero che il 75-80% degli ebrei italiani sono sfuggiti agli arresti e alle deportazioni, i compresi gli ebrei stranieri che erano arrivati in Italia, gli ebrei fuggiti dalle regioni del proletariato, questo 75% si è salvato da solo o si è salvato perché c'erano delle reti, c'era un movimento di protezione civile? Eh, ambedue nel senso in cui insistivo ieri, insistevo ieri, di una guerra che va compresa non solo sul registro nazionale ma sul registro globale. Ho pensato assai a questa distinzione tra opinione pubblica e opinione pubblicata, che mi sembra molto utile come primo passo per comprendere di cosa stiamo parlando. E nel senso del globale, effettivamente il novembre 42 è uno snodo non secondario, per alcuni versi potremmo dire il secondo semestre del 42. Penso ovviamente alla catastrofe di Russia, ma penso segnatamente ai Lavalieri, che non è stato nominato ma che sicuramente era della mente. E alla mente è importante perché è una vittoria delle forze, alla fine delle forze armate anche la statunitense, ma una vittoria di forze armate globali, forze armate del mondo, dove gli australiani avevano un rilievo secondario ed erano quelle stesse popolazioni che la propaganda fascista negli anni della guerra, dal 40, 41, 42, dileggiava, pubblicamente irrideva, e sono quelle che costringono e inchiodano il regime ad una sconfitta che muove l'opinione pubblicata e sicuramente l'opinione degli italiani che sapevano. E il regime rispetto a questo non sta proprio del tutto in attesa. Interessante sono i verbali, le trascrizioni, comunque diciamo i documenti pubblicati da Trafalgar degli incontri di Pavolini con i direttori dei grandi giornali. E Pavolini usa questo termine, c'è un salire dell'antifascismo nel paese e voi direttori di giornali dovete contrastare. Quindi il regime fa quello che può, fa quello che con i mezzi che ha, come era detto, in un paese non libero, controllando quel poco di giornali che ci potevano essere. Sempre nella convinzione che la guerra consolida un archivio non solo antisemita, ma un archivio di tipo fascista, di percezione del globale, veramente, per esempio, colgo un punto della relazione Simone Sullam, quando ha detto, ha citato l'incidentalismo, che un giornaletto, se capisco bene, Padovano, se ricordo la fonte, non sono preciso, dileggiava anche qui le forze armate del popolo che risalivano la penisola perché erano fatte di neri, e poi c'è il famoso manifesto di Boccasile. Questo è un punto che ritorna e che lega la guerra fascista con la guerra del fascismo repubblicano, perché i soldati e gli ufficiali italiani, prigionieri in Africa settentrionale e prima in Africa orientale, quindi portati dalle forze anglo-statunitensi, principalmente nel Kenya, anche in India, ma principalmente nel Kenya e Sudafrica, erano, tenuti prigionieri da soldati, che erano i più combattivi, quelli che venivano mandati appunto nelle campagne di combattimento, cioè nei campi di prigionia, spesso popolazioni, soldati neri. Nella memorialistica che ho studiato dei combattenti delle guerre d'Africa orientale e in Africa settentrionale, memorialistica edita talora nell'immediato dopoguerra, ma anche negli anni 70-80, una memorialistica di tipo militarista, nazionalista, parafascista, è difficile, ogni prigioniero fa testa a sé, ma insomma, diciamo, questo fatto di essere stati tenuti prigionieri, persino da degli africani, è un punto che ricordo, come a dire che il giornaletto, il fascismo, l'RSI hanno vinto nella memoria interna della Repubblica in un periodo di tempo. È evidente che questo fa problema e in qualche modo ha delle conseguenze su loro. È chiaro che la memorialistica di guerra è una cosa complessissima, io ho solamente detto un punto, però rivela come la percezione globale di un mondo complesso, non è solo cosa degli ultimi 10-20 anni di immigrazione, è una cosa distante nel tempo. L'altro punto della tua relazione è quello, e quando anche lì buttato là ci ha ricordato che i veneziani in silenzio deprecavano quei pochi che hanno visto questi vaporetti, questo vaporetto, eccetera. Questo ci conferma la rilevanza della ricerca su questo campo e la necessità di trovare sempre maggiore documentazione, perché, come diceva tu, che da pilota avessero meno la responsabilità, appunto non secondaria, e che noi grazie a quel documento sappiamo che ne siamo ricercati, perché si è ricercato. Quindi ci sono tanti documenti da cercare e sono molto contento che anche per il Veneto venga fatto quello che è stato fatto appunto da nessuno. Spero che mi si veda, perché io sono uno degli ebrei veneziani che 70 anni fa è sopravvissuto a quella del campo. Ora è vero che la retata ha portato via 150 persone, di cui i nomi sono in quella lastra di piombo che c'è nel campo di Ghetto di Venezia. Però è vero che molti più degli ebrei veneziani sono stati salvati da gente che ci conosceva o più o meno e che è venuta a prenderci con le barchette, con le barche, il 2 e 3 di dicembre con la nebbia, il freddo tremendo che c'era a Venezia. Allora la domanda è questa: è vero che in questi anni abbiamo fatto di tutto perché alcuni di questi che ci hanno salvato siano stati nominati giusti delle nazioni? Però il negazionismo, e qui io sono preoccupato, perché oggi ho nipoti, tanti nipoti e piccole nipotine. Questo negazionismo, di cui io chiedo che si dica due parole, forse esplode proprio perché ci sono stati salvati, perché hanno l'impressione che con tutto quello che è stato fatto di perdere il tempo sugli ebrei, intanto che morivano milioni di buoni cristiani su tutti i fronti di guerra, e l'asse perdeva il tempo sugli ebrei a uccidere e bruciare gli ebrei. Il negazionismo utilizza il fatto che molti ci siamo salvati, ci hanno salvati, per tramare le nuove cose contro l'umanità. Grazie. Allora, grazie, grazie per le domande, e non mi posso però sottrarre a una provocazione che ha fatto il professor Luzzatti sul discorso della nascita della Repubblica antifascista. È un po' una provocazione, nel senso che c'è una grave provocazione ed è un rilevante problema. Detto questo, è chiaro che quando noi parliamo di opinione in maniera così indifferenziata, cerchiamo di dare un affresco grosso modo di una di popolazione che, di una popolazione che noi abbiamo dovuto per forza per analizzarla settorializzare. La questione della nascita della Repubblica, a mio avviso, è una questione che si lega alla capacità che hanno le forze politiche di rappresentare una parte di questo discorso. Cioè, togliamo un momento di mezzo del discorso dell'opinione e andiamo a un altro piano di dibattito per discutere, se vogliamo discutere, della Repubblica. La nascita della Repubblica di Fascismo. esercista va misurato nella capacità che hanno le forze del di creare appartenenze nella popolazione, di raccogliere il consenso della popolazione. Poi si può andare a vedere che tipo di consenso di nuovo, però che abbiano raccolto il consenso della popolazione per creare, per rendersi cioè loro responsabili di quella Repubblica che hanno creato in nome dei loro cittadini, questo è il luce. Dopo si può fare un discorso, si fa, si deve fare, ma è giustissimo aver proposto il problema di qual era l'opinione pubblica del, scusate, in questo caso si può anche dire, qual era l'opinione pubblica degli iscritti a quella forza politica, qual era l'opinione pubblica degli iscritti a quell'altra forza politica. Quella forza politica che ha fondato, quelle forze politiche che hanno fondato la Repubblica, l'hanno fondata come Repubblica Democratica Antifascista, assumendosene tutta la responsabilità e soprattutto garantendo loro la lealtà dei loro iscritti. Io insomma la vedo un po' così, poi è chiaro che allora posso dire io una cosa a lei che mi è piaciuta moltissimo il suo finale. Il suo finale è però collegatissimo al mio discorso sull'opinione, nel senso che il vero problema è che manca un discorso di mobilitazione, cioè il cittadino che non intende farsi carico di un problema che si apre da sé, perché è anche la risposta a fare il lavoro, che è ovviamente una risposta provocatoria, però il vero problema, che è il problema anche degli antifascisti, cioè è la mancanza di assunzione di responsabilità e quindi di mobilitazione. Rispondo: scioperi del 43 Mussolini, e così mi metto insieme. Sì, è vero che c'è, che ci sono buchi a livello archivistico nelle carte che riguardano il 43, però che si ritrovano, perché si ritrovano non solo nei rapporti prefettizi, i rapporti prefettizi sono più scarni, però in altri, adesso questa ricerca l'ho fatta parecchi anni fa, quindi è difficilissimo dare dei fondi, però all'inizio anche io ero convinta di trovare una quantità di materiale maggiore, cioè poco materiale, quindi presumo anche che è stato molto spostato in altre fonti o addirittura ovviamente non ci dobbiamo dimenticare che tutte le spie del regime, chiamo così, ma insomma, tutti quelli che sono coloro che rilevano lo spirito pubblico, l'opinione, eccetera, sono sempre un po' tentennanti quando devono dare cattive notizie. Nel senso che un questore, perché bisogna andare sempre all'inizio della catena, un questore o un prefetto, un questore che è lui poi a attraverso i comandi dei carabinieri e delle varie forze di polizia dà il primo messaggio sul genere sull'ordine pubblico, ma è da quello poi che si ricava l'opinione. Vuole far capire che lui è capace di tenere la popolazione e quando poi ha discorso cioè, della ferma, di mantenere l'ordine, di garantire che tutto vada bene, quindi cioè, è molto importante cercare di capire, di leggere anche le persone che scrivono questi rapporti, come è noto, gli studiosi di questi rapporti sono dei rapporti da interpretare, quindi non. E così va per tutte, per esempio, le spie che vengono isolate. Andare sempre per chi le notizie, perché se dessero buone notizie è chiaro che no, allora è utile pagare, insomma, quindi è complicato. Il discorso però è sicuramente di ciò che del 43 sono dirompenti. Io continuo a repressione limitata all'interno, limitata alla persona, cioè che resta sopra, non è che non sia, ma diciamo che non sia il bagno di sangue, perché effettivamente è una testimonianza che Hitler fosse allibito di fronte alla scarsa reazione anche. Poi è uno sciopero che sono gli industriali tra l'altro a sfilarlo dalle mani di Mussolini, dalle mani dei gerarchi, no? Dicendo per carità non fate, non vi mettete in mezzo perché è peggio. Quindi già questo è un'indicazione che arriva a Roma, tant'è vero che ci sono i rapporti in cui si capisce che c'è un passaggio di mediazione, cioè che c'è un passo indietro perché la mediazione possa avvenire su un piano strettamente economico, e quindi che la situazione si risolve in un certo modo. Io sono, non mi pare che sia nell'ottica di Mussolini quella di scaricare per rafforzarsi un'ondata squadrista. Cioè lo stato d'animo della popolazione è questo, quello che lui non vuole turbare l'ordine pubblico, perché l'ordine pubblico è il pilastro su cui ancora regge fino al 25 luglio del 43 in Israele. E quindi un'ondata squadrista andrebbe a inasprire una situazione che Mussolini vuole calmare, perché vuole l'ordine, è la sua carta. Un'osservazione. Ah no, prima di andare all'altra osservazione che è interessante, cioè perché c'è poca fiducia di quelli che Vecchia amava il prendere no. Volevo dire alla banca, certo che è molto importante, diciamo, la reazione sulla propaganda, è importantissimo, il tentativo c'è, c'è tutto. C'è il tentativo e ancora più secondo me. È interessante il tentativo della radio, il famoso Avenus, che dice vabbè io adesso faccio come c'era la Cina, lacrime sangue, cioè vi dico gli italiani che la guerra è terribile, che dovete dare lacrime sangue, eccetera, eccetera. E però questo felice, anzi a maggior, è un altro degli elementi che questo si influisce sull'opinione pubblica, perché a questo punto l'opinione pubblicata interferisce, perché la radio arriva agli italiani, sì, la radio Londra ascoltava anche la radio fascista, e la cosa che turba molto il regime è che nemmeno quando c'è lo sbarco in Sicilia si può registrare un'ondata d'opinione di tipo patriottica. Insomma, a Caporetto qualcosa era successo. Magari un po' enfatizzato, però qualcosa era successo. Il fatto che i nemici sbarcano in Sicilia e non c'è una reazione popolare, mettono piede sulla sacra suola italiana, questo è un dato piuttosto significativo per leggere l'opinione. Ultima cosa. Sì, certo che sono importanti le fasce di opinione borghesi. Fasciste, io lo considero, diciamo, quelle fasce, diciamo, monarchiche, liberali, come posso dire, una Albertini, anche se non tutti possono essere Albertini, poi c'è anche, diciamo, un ceto medio piccolo, però nei centri medio piccoli il fascismo che cambio l'ha dato, insomma, sono quelli più, diciamo, filofascisti per alcuni aspetti, il ceto medio piccolo. Questi hanno una fascia di opinione larga, perché poi alla fine condiziona anche le fasce di opinione più basse che nei modelli alti si vanno a identificare. Il problema è politico, esattamente politico come lo è per il proletariato, per il operaio, per il mondo del lavoro. Questa fascia vale a dire quella che era la classe dirigente liberale, anche quella che era salita Spaventino, eh. Ma noi sappiamo che il re nel 1924 a questa classe dirigente non ha dato fiducia. Ah, erano andati nel 24 dal re, no? A maggior ragione non gli dà fiducia nel 43. Cioè il vero colpo di Stato è il corpo di Stato fatto con i geranti, non a caso non lo fa con i Visconti Venosta e con diciamo gli esponenti della classe fascista. Perché non si fida? Perché diceva che erano incapaci di mantenere. Lo fa con i geranti proprio in funzione dello sciopero del 43, cioè è un pugno duro di cui lui si vuole assicurare, no? Un liberalismo che possa aprire le porte. Allora, grazie delle varie situazioni che sono state fatte, perché spesso sono persi sul lavoro, mi consentono di mettere meglio a fuoco le cose che penso si dicono. Per quanto riguarda la prima domanda, per quanto riguarda la prima domanda sul corpo di polizia, a non sono note nella zona che finì sotto la pubblica sociale rivolte di poliziotti, carabinieri che rifiutano di stare sotto la nuova autorità politica costituita. Forse questa spaccatura tra quelli che stanno nel Reggio Esercito che seguono la monarchia e quelli che stanno nel centro-nord è un po' casuale, diciamo, però di fatto pone il problema della continuità dello Stato che con le sue strutture ha una forza di inerzia che si ritrova a sostenere dalla parte delle forze politiche che stanno nel centro-nord il progetto che è il progetto. Questo dato come il problema dello Stato si è dato sul tempo della Grande Corone, e dopo, nel senso che se prendiamo il caso di Venezia, il capo d'ufficio affari ebraici della struttura di Venezia diventa, nella dopoguerra, il capo d'ufficio restituzione dei beni ebraici, per quello che aveva sequestrato, arrestato, così occupato, come era scelto, e questo senza soluzione di continuità. Il problema, diciamo, delle responsabilità e di diversi gradi di responsabilità. Io ho cercato di sottolineare completamente la questione delle diverse responsabilità. Da un lato, diverse, tuttavia, cercare di capire in che modo il genocidio entra nelle vite delle persone. Nel senso, questo progetto entra coinvolgendo strati diversi della società. Cioè, non dobbiamo immaginarci solo il carnefice ideologicamente motivato, l'SS, il ragazzino. Dall'altro lato dobbiamo riflettere sul fatto che la macchia dello sterminio, Bauman ha molto studiato in modernità all'Olocausto, si affida proprio a questo processo di burocratizzazione che funziona perché c'è una deresponsabilizzazione che nasce dallo spezzettamento di singoli atti del tutto innocui che non sono chilometri e chilometri lontani dall'esito finale. Dall'atto dell'uccisione in sé, ma senza i quali non è possibile compiere questa operazione che deve servirsi e fondarsi di queste infinite con responsabilità. Ed è il motivo per cui il grande storico Raoul Hitler, nel documentario Schwab della Zmanna, si fece riprendere davanti agli orari dei treni dell'Europa occupata, dice: se non ci fosse stato questo complesso meccanismo, se non ci fosse stata la partecipazione delle ferrovie italiane dello Stato al trasferimento dei prigionieri ferrovieri italiani, la parte italiana non avrebbe potuto avere luogo. Poi probabilmente abbiamo distinto, insomma. C'è stata, molti si sono salvati, la maggior parte sono salvati grazie ai salvatori, è vero, io insisto sul fatto che negli ultimi anni c'è stata un'enfasi eccessiva che ha addirittura mascherato le responsabilità degli italiani e dello Stato. Lo Stato italiano non ha mai assunto esplicitamente, ufficialmente, la responsabilità delle proprie forze di polizia delle operazioni di Stato. E sono passati vari decenni, questo deve ancora avvenire. In Francia è stato avvenuto diversamente, ci siamo arrivati tardivamente, ma ci sono stati dei processi, ci sono stati degli atti ufficiali dello Stato italiano e dello Stato francese che hanno riconosciuto le proprie responsabilità. I numeri dei datori sono difficili da calcolare. Dietro a ogni arresto ci sono spesso quasi sempre delle denunce. siamo noi, bisognerebbe modificare il numero. Io in generale sono interessato alla funzione qualitativa per entrare nei criteri, ma il numero conta. Il discorso sul negazionismo che va sollevato porta, si collega alla questione degli effetti perversi del buonismo, della celebrazione di stati giusti, che dicevano allora se tutti erano buoni di cosa stiamo parlando, forse non è successo veramente quello che è successo. Io credo che dobbiamo continuare a parlare degli uni e degli altri, anche se di internet è più difficile, più faticoso parlare, sembra più virtuoso e remunerativo sul piano etico quello di portare i giusti. Le notazioni di Galizzato e di Colabaglia sul razzismo antiafricano, antisemitismo e l'incisività di Salò, non la sopravvaluterei. La verità è che ci sono diversi anni di propaganda razzista, non parliamo di quella coloniale, che sedimentano queste forme di acculturazione razzista in Europa in genere e in Italia nei tempi, per certi aspetti, dell'Italia liberale, ma sappiamo che certe rappresentazioni anche esotiche dell'Africa portano in sé di valori, creano delle gerarchie, quindi è una storia lunga quella del pubblico italiano che da diversi anni, anche grazie a cui presenti, si studia. Salò è la punta estrema in cui si aprono le forme, scusate l'espressione, però è una storia lunga in cui il fascismo ha un ruolo decisivo e in cui si stampano libri di testo e libri scolastici in cui la razza va per la maggior parte. Questa è una cosa che riguarda l'intera Europa. Dell'Italia si vede un po' diverso. Grazie. Grazie.